Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E ogni volta ho ragione a ribadirlo che non ci sono più le mezze stagioni. Avete visto questa settimana? Ma Cagliari, quanti secoli era che non nevicava a Cagliari? Anche a Roma, parecchi anni anche a Roma. Insomma, è incredibile. Insomma, poi cercheremo di contattare il colonnello Giuliacci per avere lumi su questo tempo impazzito. Ma io l'ho detto sempre dal titolo, già di lì si capisce. A proposito di non ci sono più le mezze stagioni, anche le donne velate non sono più quelle di una volta, no? Uno le scopriva, le scartava una volta acquistate e trovava sotto una donna seducente, no? Nascosta agli occhi degli altri, ma insomma pronta e disponibile per il maschio di turno, diciamo. E invece avete sentito questa settimana questa fregatura che ha subito un ambasciatore arabo raggirato dalla suocera, che gli ha fatto vedere la foto di una delle figlie, naturalmente solo lui l'ha fatto vedere scoperta, poi dopo però lei si è presentata coperta, come giusto, no? Una volta forse solo cos'era il cofanetto sperlare, non si prendeva a scatola chiusa, però la donna invece col velo si prende a velo chiuso, viso coperto. E poi lui si è ritrovato questa donna una volta che l'ha scartata a casa, barbuta e stravica, e ben gli sta, insomma, se la dovrebbe tenere. Donna barbuta sempre piaciuta, sembra che lui non sia piaciuta per niente. Che scherzo però del destino. Comunque adesso ci dobbiamo addentrare, questa già era una notizia della settimana. Quale notizia invece ha colpito voi in questi giorni? Sono sempre moltissime, c'è l'imbarazzo della scelta, oppure una scelta imbarazzante, che dir si voglia. Il numero verde per voi 800 24 00 24. Tra l'altro vorrei farvi sentire anche proprio inizialmente una cosa. Questo è il rullo di tamburi per presentarvi l'opinionista estemporanea di oggi, la cosa la faccio sentire dopo, che è Stefania Barzini. Salve a tutti, buongiorno, buon pranzo. Grazie di essere qui, Stefania, che però di buon pranzo, è deformazione professionale questa. Stefania Barzini, sì, è giornalista, scrittrice, soprattutto si occupa di cucina e di gastronomia, sì, no? Tanto per il gambero rosso, e quindi questo buon pranzo effettivamente non l'avevo mai sentito qui in trasmissione. Senti, Stefania, il tuo ultimo libro si intitola L'ingrediente perduto. Sì, è un romanzo. Un romanzo attraverso generazioni di donne, sì, no? Sì. Sarò telegrafica. Quattro donne, quattro generazioni di donne della stessa famiglia, due continenti, l'America e l'Italia, anzi meglio la Sicilia. Storie di emigrazione, perché la prima emigra, storie di cibo, storie di donne, storie di amore, di amori contrastati, sbagliati, perduti. Come spesso accade, come purtroppo spesso accade. Pubblicato da Sonzogno, però prima volevo chiederti, poi dopo la sviluppiamo, c'è una notizia che questa settimana che avrei voglia di discutere dopo? Ma guarda, le notizie sono talmente tante, forse quella più ovvia, nel senso che sulle prime pagine di tutti i giornali è, tra virgolette, lo scandalo Bertolaso, forse quella, ma insomma comunque ce n'è veramente a iosa. Poi vedremo con gli ascoltatori, anche perché ho in serbo per questa settimana, anche per la prossima, una sorpresa. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lumpa. Per fare la Milano centrica, così inizio con questa, perché fa parte di un CD, una compilation, un doppio CD che si chiama Dialetti d'Italia, che è uscita in questi giorni, in vista di Sanremo, che inizia martedì 16 febbraio. Sapete che c'è stato tutto quel dibattito, allora è giusto cambiare il regolamento per far cantare i cantanti anche in dialetto, così. Poi in realtà è finito in una bolla di sapone, è vero, ci sarà Nino D'Angelo che canterà in napoletano, gli altri no, però intanto è stata un'occasione per far uscire questo album, che ha 46 canzoni, vanno appunto dal profondo nord, questa è dedicata a Milano, fino al profondo sud e viceversa, ce ne sono veramente di tutte le regioni. E vorrei regalarlo questa volta con Radio 24 e con la Warner ai primi due ascoltatori. I primi due ascoltatori che chiameranno l'800 24 00 24, non per fare giochi, semplicemente vogliono esprimere la loro opinione sui fatti della settimana. 800 24 00 24, quindi i primi due, questo CD che sentite. Ma direi che non ci possiamo perdere, come sempre all'inizio, anche un punto di vista diverso, a parte i vostri, a parte quello di Stefania Barzini, che tra poco ci racconterà insomma delle notizie, in particolare quella che diceva, certo la più ovvia, quella un po' su tutte le pagine, le prime pagine. Però vi dicevo, ogni tanto guardare anche da lontano, dall'alto, in modo un po' defilato, un passo indietro le cose della Terra. Riflessioni da Marte. A guardare giù da Marte, come sempre, come è comprensibile, no? Si ha un punto di vista un po' marziano, un po' strampalato, sa. Ma l'impressione da guardare giù, soprattutto verso la penisola italica, sempre un po' nell'occhio del ciclone, è che vi sia una strana, come si può dire, gelatinosa connessione tra tutto questo allegro proliferare di atteggiamenti da bordelli e l'inarrestabile fuga di cervelli. Chi dite voi, ci sarà un filo conduttore fra queste cose? 3.000 calotte craniche con materiale prezioso che mollano ogni anno l'Italia. 3.000 l'anno, guarda, mi viene un colpo alla voce, per migrare queste 3.000 cervelli come rondini verso lidi più accoglienti. E quindi che rimarrà mai all'Italia con tutti questi cervelli che mancano all'appello, 3.000 l'anno? Resta il paradiso sognato da Tinto Brass, attraverso il buco della serratura. Non per niente quei lungimiranti dei radicali l'hanno candidato, proprio lui, il principe dell'eros cinematografico grottesco e un po' pacchiano, alle prossime elezioni regionali. Un chiaro segno dei tempi, come dire, libero grufolaggio in libero stato. Dunque, in seguito a questa, come possiamo definirla, modificazione antropologica, soprattutto dei maschi di potere, dediti a gozzovigliare tra appuntamenti in accappatoio e lenzuola in serie, dicevo, sta modificando, insomma, questa, la fisionomia, no, del prototipo italico, potrebbe diventare, questa fisionomia, una sorta di pera mostruosa. In che senso, direte? Con la testa piccola piccola, dato che il cervello quando c'è fugge all'estero, quindi la testa è piccola, si rimpicciolisce, e le zone basse invece ipertrofiche, almeno questo nelle aspirazioni, diciamo così, insomma, una pera. Si sono quindi sbagliati i futurologi che hanno continuato a immaginare, no? Avete in mente quegli esseri umani del domani con grandi teste iperpensanti e fisichini gracili, sottili e sottoutilizzati? Avete in mente quell'immagine fantascientifica? Ecco, sono invece sì sottoutilizzati i corpi, ma nel senso che la tendenza è quella di utilizzarli sotto, solo sotto. Insomma, se è vero che non ci sono più le mezze stagioni, è anche vero che il futuro non è più quello di una volta. E questa non voleva essere in qualche modo un riferimento, anzi ci sarebbe più, diciamo, più consono in questo momento il malo mascolo, forse, qui almeno in Italia e non solo, per dirvi, insomma, varie canzoni dialettali per i primi due ascoltatori che chiameranno. Allora. Stefania Barzini, dicevo, il titolo del tuo libro è L'ingrediente perduto. In Italia qual è secondo te un ingrediente perduto? La memoria. Secondo me la memoria. Abbiamo proprio dimenticato chi eravamo, da dove venivamo, che abbiamo fatto la fame, che siamo stati dei poveracci. Abbiamo cancellato tutto e di conseguenza è come se fossimo un popolo un po' nuovo di fronte a cose che in realtà ha vissuto tutto il mondo, ma per noi è sempre come se fosse la prima volta in qualche maniera. E purtroppo ci manca anche la saggezza. Io non sono una che si rinchiude nel passato, però il passato serve per poter vivere un presente e un futuro, certo, dignitoso quantomeno. Ecco, per me questa è proprio la perdita di questo paese, secondo me. E forse importante. Anche memoria è possibile delle cose più recenti, anche, no? Quelle da cui avremmo dovuto imparare qualcosa, non solo le guerre, ma anche solo in Italia, infatti, fine anni 80, primi anni 90, no? Si parlava di Tangentopoli. In realtà sì, sembra che tutto sia solo un pochino più nascosto. Ma poi aveva ragione Bruno con i corsi e ricorsi storici, diciamo così, perché sembra veramente che la nostra storia si ripeta all'infinito, sempre la stessa, senza avere possibilità di andare avanti di un passo. E quindi così ci ritroviamo. Allora, prima di sentire gli ascoltatori al numero verde, ecco, anzi, prima di volevo ricapitolarvi, come faccio di solito il sabato, un po' di notizie, però diamo voce a un ascoltatore, visto che passa per primo e quindi si aggiudica anche il CD dei dialetti. È Maurizio da Padova. È stato velocissimo, Maurizio. Pronto? Buongiorno signora. Se mi chiami signora mi viene l'orticaria, te lo dico subito, Maurizio. Sì. Mi chiami Roberta? Prego? Mi chiami Roberta? Roberta. Ah, Roberta, grazie molto. Allora Roberta, niente, io vi ascolto sempre a prescindere. E a proposito della notizia della settimana, penso di non dire niente di nuovo, forse sarà anche banale, il discorso di Bertolaso, perché è una persona che ha fatto tanto, ha movimentato tanto, ha creato tanto interesse attorno alla protezione civile, attorno agli interventi, e che dopo venga offuscato tutto da queste forie che verranno accertate, verranno chiarite, eccetera. Però quello che resta alla gente purtroppo sono sempre le cose più brutte, più fuligginose, insomma, quello che resta, non certo le cose concrete che vengono fatte. Adesso io non sono in grado di dire i torti e le ragioni. Certo che ha spazzato via tutto quello che era stato costruito prima, insomma, l'ha riabilitato poi, non lo so, insomma, temo che è una cosa che ha scosso molti, perché era un modo nuovo di intervenire rapido, veloce, che aveva questa persona con l'appoggio del governo, indubbiamente, e ha lavorato anche con un altro governo, quindi era l'appoggio era da tutte le parti. E dopo questa cosa sembra impossibile che persone così che potrebbero essere affascinanti o avere modo lo stesso di frequentare chi vogliono, ricadono sempre su questi recapiti, se ci sono, pseudosessuali, insomma. Sì, questo è vero, una riflessione al di là di tutto curiosa ma pertinente, no? Di là appunto che, come abbiamo detto e come dici anche tu, Maurizio, i fatti dovranno essere accertati poi, però che certi personaggi al di là di Bertolaso abbiano davvero bisogno, no? Uomini di potere con la fama, i soldi, il carisma, eccetera, di pagarsi le donne come fossero, appunto, mi pare che fosse chi era, forse Gerd Lerner ieri su Repubblica, diceva la donna tangente, no? E come un compenso che si dà in cambio di un favore, da parte questo ruolo sempre più svilente riservato alle donne, sì. ma anche bisogno di andarsene a cercare così a pagamento, sì, no? Però voglio dire, in questo caso, grazie Maurizio, intanto, in particolare, non è solamente, e non è tanto, perché per appunto poi ognuno del suo privato fa quello che vuole, però poi dopo che l'occhio cada sempre su quello, ma se uno legge le trascrizioni, non è l'interesse non cade solo e soprattutto sul fatto appunto di donne, festine, ma c'è molto altro, ci sono storie che bisognerà accertare, ma comunque di corruzioni, di tangenti, di soldi spesi in maniera, cioè, è quello che io trovo preoccupante. Poi dopo quello che fanno nel loro privato sono fatti loro, insomma. E poi a questo proposito, no, leggevo invece oggi l'editoriale di Fiorenza Sarzanini, I passi necessari, sul Corriere, sulla prima pagina del Corriere, che diceva, fra le altre cose, sapete che in questi giorni dovrebbe passare questo progetto di fare della protezione civile un SPA, quindi sì, società per azioni, e non più quindi un dipartimento dello Stato. Allora, diceva giustamente nel finale del suo editoriale, lo riprendo qui, nell'attesa di questo chiarimento, cioè di capire insomma le cose da verificare, come sono andate, sarebbe opportuno sospendere l'approvazione del provvedimento che trasforma la protezione civile in una società per azioni, se non altro per proteggere quella maggioranza silenziosa, dice, di volontari, tanta gente che lavora da tanto tempo con abnegazione, no, nella protezione civile, della struttura, anche del più vago sospetto, quindi liberarla anche del più vago sospetto di voler accrescere il proprio potere. Mi sembra che possa essere un concetto abbastanza condivisibile. È anche una proposta condivisibile, assolutamente. Io poi non ero neanche d'accordo proprio sulla proposta. Penso che alcune cose debbano restare statali in modo da poter essere controllate meglio in qualche maniera. Però, insomma, in questo caso almeno sospendere mi sembrerebbe doveroso fino a che non si capisce esattamente cosa è accaduto. Certo. Tra l'altro mi sono dimenticata di dirlo a Maurizio da Padova, ma gliel'avrà ricordato Giorgio De Luca, sempre attivissimo ai telefoni, che riceve le vostre telefonate, Giorgio, che Maurizio ha vinto uno dei due CD in palio oggi, quello dedicato ai dialetti. Scusate, la voce è un po' di freddino, anche a Milano si sente. Quindi il primo è stato Maurizio, poi mi sembra che il secondo, vedo Ferdinando da Milano, quindi dal nord, ma si prenderanno tutti i dialetti anche del centro, del sud, eccetera, eccetera. Ferdinando, sei contento? Sì, grazie. Ah, sì. Lo vuoi questo CD? Sì, grazie. Bene, laconico, Ferdinando. Allora, invece la tua notizia della settimana qual è? Allora, la mia notizia è la seguente. Premesso che io credo nell'organizzazione dello Stato, nella politica per l'organizzazione sociale e economica dello Stato. A Milano è stato arrestato un consigliere comunale con i soldi in mano. Sì. No? Sì. La Moratti gli chiede per favore di dimettersi, quando dovrebbe dimissionarlo d'ufficio, numero uno. Numero due, questo signore, no, per arrivare lì, è stato presentato da un ente politico, da un partito, da qualcuno, giusto? Perché, dico io, in sede di processo, che tra l'altro dovrebbe essere per direttissimo e non appellabile, sia il comune che il partito politico che l'ha presentato non si costituisce parte civile? E quei soldi vanno a finire a quella famiglia del Veneto dove c'era un bambino che la mamma non poteva pagare la bolletta della luce, lui aveva bisogno di un respiratore, no, e l'Enel gli ha staccato la corrente. Sono dovuti intervenire i carabinieri per farla riattivare. Questi soldi che noi prendiamo da questi farabutti che si corrompono, no? I comuni, i partiti, devono elargirli già quando si costituiscono parte civile, devono dire questo vanno per togliere questa barriera architettonica, questo vanno per aiutare questa organizzazione. Sensibilizziamo la magistratura perché si faccia carico di questa istanza di costituzione di parte civile e così staremo meglio tutti. Non può entrare in politica lei per caso? Ti chiede Stefania Berzini. Io non voglio entrare in politica, io credo nell'organizzazione politica dello Stato, però voglio combattere anche chi delinque in questa organizzazione politica. Ferdinando, posso chiederti, tu da sei abiti a Milano da tanti anni ma vieni dal sud? Sì, sono nativo del sud. Di dove posso chiederti, a Campania? Della provincia di Avellino. Di Avellino, così poi nel CD avrai tutto un compendio di tutti. No, ma conosco abbastanza bene i dialetti. Ecco, senti Ferdinando, c'era un'altra cosa che volevo chiederti, di cosa ti occupi nella vita, se voglia di dirmelo, sennò... Io adesso non mi occupo più di niente perché sono un ex pensionato, sono un ex poliziotto. Però hai voglia... Faccio un po' di volontariato quando me lo chiedono. E poi basta. A proposito di tanti volontari di cui si poi parla, poi leggo tanto giornale e ascolto tanto Radio 24. Benissimo. Se allora, tu sì, vuoi perfetto. Sapere a che ora fanno determinate trasmissioni, te lo posso dire. Per esempio, non ci sono più le mezze stagioni, a che ora inizia, a che ora finisce? Alle 14 fino alle 15. Perfetto. Ultimo interviene promozzo. Il colonnello Giuliacci per le previsioni del tempo, che non gli fai mai dire tutte. Sì, perché poi arriva sempre, lo chiamo sempre all'ultimo. Il tempo corre, gli ascoltatori premono. Io ho l'ansia, la tachicardia a un certo punto. Lo so. Ferdinando, ti ringrazio. Grazie moltissimo, te lo sei meritato appieno questo CD. Ascolta, io dovevo scriverti una lettera a proposito della trasmissione domenica scorsa, di sabato scorso, che c'era anche Oliviero Bea. Sì, Oliviero Bea. Non te l'ho ancora scritto perché in minuto mi è venuta un po' pesantina. Oh. Devo correggerla un pochettino. Mi devo preoccupare? Senti, no, non per te. Ah. Che l'avevo con la categoria dei giornalisti in quel caso. Prendiamo quel che viene. Ferdinando, senti, comunque lo ricordo a te, anche agli ascoltatori, in genere ascoltatrici, c'è una mail che io do rarissimamente, forse l'ho guardata due volte in tanto tempo, però c'è, si intitola proprio, si chiama Non ci sono più le mezze stagioni, tutto intero, scritto tutto intero senza l'accento sul più, perché la tecnologia arriva fino a un certo punto. Non ci sono più le mezze stagioni, @radio24.it, 24 scritto in 2-4. Va bene Ferdinando, è chiaro? Grazie a te, grazie. Ferdinando, ciao. Sempre Roberta Giordano con voi, sempre fedelissima, alle 14 con Non ci sono più le mezze stagioni. C'è con me oggi come opinionista estemporanea Stefania Barzini, scrittrice e giornalista, che ha appena pubblicato con Sonzogno L'ingrediente perduto, che parla di questa storia di donne appunto partite dalla Sicilia, cosa, fine 800 dicevi? Partive inizio del secolo scorso, primo 1900, già il secolo scorso purtroppo. Arrivate in America e poi le varie generazioni che si susseguono, sempre a femminile. E ci diceva Stefania, ho fatto la battuta, qual è l'ingrediente perduto in Italia? Diceva la memoria, effettivamente su tante cose ci si dimentica molto presto, no? E questo ci impedisce anche di vivere il presente e il futuro con consapevolezza, anche con civismo, con saggezza. Ritorniamo sulle vostre telefonate, poi cerco di fare questa sintesi delle notizie. C'è Luca da Torino, sempre al numero verde, che è quindi gratuito, 800 24 00 24. Luca. Ciao Roberta, Luca da Torino. Eccoci Luca, salve. Ciao. Allora, io volevo intervenire sulla questione Bertolaso, perché come al solito ha tirato dietro un sacco di polemiche sulla magistratura che colpisce sotto periodo elettorale, eccetera, eccetera, le solite polemiche. Mm. E che soprattutto sostanzialmente con questa cosa si vuole mettere in discussione l'operato di Bertolaso, ma qua nessuno vuole mettere in discussione l'operato di Bertolaso. Bertolaso può anche aver operato benissimo, cioè anche Valentino Rossi è stato un grandissimo campione, nessuno mette in discussione che sia stato un grande campione di motociclismo, ma se evaso le tasse, è evaso le tasse, punto. Cioè se Bertolaso ha commesso dei reati, è giusto che al di là dei meriti che può anche aver avuto, la magistratura indaghi. Seconda e ultima considerazione che faccio sulla ipotizzata politicizzazione della magistratura. Si dice sempre magistrati che fanno politica, soprattutto sotto lezione, eccetera, eccetera. Io vorrei portare il discorso a un ragionamento molto, molto più banale, molto più semplice. Ma vogliamo veramente credere che ci siano delle persone in Italia che hanno studiato, che sono finite a fare i magistrati e che per far vincere 10 anni fa Prodi, D'Alema, Bertinotti piuttosto che Rutelli, oggi Bersani, sono disposti a commettere la crudeltà di indagare indebitamente delle persone per buttare degli innocenti in galera? Io onestamente questa cosa non ci credo, è molto più banale come concetto rispetto a tutti quelli che normalmente vengono fatti, ma io non ci credo che in Italia oggi ci siano delle persone che abbiano questo obiettivo di buttare in galera delle persone innocenti per far vincere Bersani, Fassino, Veltroni. Onestamente è una cosa che non mi ha mai convinto. Chiudo qui il mio ragionamento. Grazie Luca, grazie del tuo grazie ragionamento. Luca. Secondo me, poi voglio dire, sì, ha ragione Luca, ma quello che voglio dire è che spesso le cose semplici nel nostro paese non vengono, perché sono troppo semplici, ci piace tutto quello che è barocco, che è complicato, che è arzigogolato, anche che è incredibile, e poi siccome è tutto gridato fa comunque più scena o cioè più... Cioè tu nel semplice intendi un ragionamento logico, nel senso lineare. Uno può aver fatto le cose più grandiose, però può anche aver sbagliato, al di là che bisognerà accertare. Accade, non è che siamo tutti esseri umani, avrà fatto una cosa fantastica sul suo lavoro e si era fatto una cosa altrettanto molto sbagliata, ma non si capisce perché oramai queste due cose non possano convivere in qualche maniera, cioè una per forza esclude l'altra. Allora se lui ha compiuto cose che non doveva compiere, allora tutto il resto è cancellato e viceversa. No, siamo tutti esseri umani, si convive purtroppo con male e con il bene, anche il dottor Bertolaso immagino. Allora, prima di sentire ancora gli altri ascoltatori, sempre le ascoltatrici, il numero verde 800 24 00 24, ogni tanto lo ricordo perché non è che tutti magari sono costantemente in ascolto, anche se spero di sì, vi sintetizzo allora lo sforzo disumano, un briciolo di notizie della settimana. Allora, naturalmente ne abbiamo parlato finora, l'inchiesta della Procura di Firenze sugli appalti del G8 alla Maddalena e dei grandi eventi, appunto tutta questa bufera che ha coinvolto Bertolaso e bisognerà accertare appunto che cosa c'è in ballo. Poi le Olimpiadi di Vancouver, le Olimpiadi invernali che hanno aperto in Canada, purtroppo con un lutto subito ieri sera con questo atleta georgiano di 21 anni sullo slittino che è morto andando fuori pista a una velocità di oltre 130 km orari, insomma. E poi vediamo un po' l'economia, dati Istat preoccupanti con la crisi peggio del previsto, la crescita del PIL, prodotto interno lordo del 2009, è stata meno 4,9%, quindi al di sotto delle aspettative. E il governatore della Banca d'Italia Draghi che ha detto la crescita ai minimi, c'è un rischio per i consumi e per il prodotto interno lordo, insomma le cose sono sempre piuttosto critiche, così come è molto in crisi invece in modo particolare in Europa la Grecia e quindi l'Unione Europea che sta cercando di fare qualcosa perché non ci sia il solito effetto domino. Poi lo ricordava anche l'ascoltatore Ferdinando, l'assessore arrestato a Milano Milko Pennisi con in mano la mazzetta, era dentro una pacchetto di sigarette, quindi si conferma che fumare fa male. E poi in Iran l'attacco all'ambasciata italiana, almeno il tentativo di attacco e questi difficili rapporti internazionali, insomma, con la comunità internazionale nei confronti dell'Iran. Le rivelazioni di Ciancimino Junior ancora nel processo contro il generale Mori, il quale altre cose ha tirato fuori, che Forza Italia sarebbe figlia di questo connubio tra Stato e trattative tra Stato e mafia, che suo padre, Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, intervenne per non fare liberare su richiesta di altri politici Moro, insomma cose sempre più contorte, controverse, veramente sta venendo fuori di tutto e chissà che cosa sarà vero. E poi le discussioni sulla par condicio in TV, avete sentito di programmi che rischierebbero di saltare o forse di essere fatti in un certo modo, controllati, così i conduttori TV, Santoro, Annunziata eccetera, che protestano. Il caso Boffo, l'ira del Vaticano che dice adesso questa è proprio una campagna, allora addirittura non solo contro il Vaticano ma contro il pontefice, dei veleni si parlava possibili, no? La stampa che avrebbero fatto venir fuori forzatamente questo famoso caso Boffo. Il caso Englaro invece, Luana, sapete che è passato un anno, è intervenuto Berlusconi dicendo che ancora sente il dolore per una morte che poteva essere evitata. Gianfranco Fini che ha detto invece io avrei preferito il silenzio in questa occasione. Beppino Englaro, padre di Luana, che ha detto ma se l'avesse vista come era conciata alla fine dei suoi giorni forse non avrebbe detto così. Al di là di tutto questo però, quanti malati per esempio di SLA in questi giorni, di sclerosi laterale amiotrofica, che sono immobilizzati nel letto, non muovono neanche le ciglia, dicono abbiamo bisogno d'aiuto, se non volete farci morire aiutateci, che non ci sia soltanto dell'ipocrisia intorno a questo problema. E poi la vicenda di Rignano Flaminio, il rinvio a giudizio dei 5 imputati che sono accusati di presunti abusi nei confronti dei bambini dell'asilo vicino a Roma. L'omicidio Raciti, vi ricordate l'ispettore di polizia Filippo Raciti che era morto durante gli scontri del derby di calcio con il Palermo giocato nel 2007 e insomma l'unico imputato Antonino Speziale è stato condannato a 14 anni. Il ricordo delle foibe, il giorno del ricordo che ha ricordato anche Napolitano. Poi c'è questa cosa particolare anche del, per esempio sulla questione delle centrali nucleari, poi ne vorrei parlare dopo Stefania, magari ce lo teniamo per dopo, svisceriamo un po' dopo. Haiti, almeno una buona notizia, dopo un mese un altro è stato trovato vivo, come avrà fatto sotto le macerie del terremoto, meno male. Questa cosa assurda di questo gioco che si scarica da internet col quale si può violentare una bambina, insomma devo dire che le menti bacate sono sempre in servizio effettivo permanente. E poi l'addio al commissario tecnico della nazionale di ciclismo Ballerini, che è morto in un incidente di rally, e Bersani che dice andrò al festival di Sanremo perché il PD deve essere un partito popolare. Il Super Enalotto, due che hanno si sono divisi i 140 milioni in palio e godranno terribilmente di questi 70 milioni ciascuno. Insomma, meno male, a qualcuno è andata particolarmente bene questa settimana. Stefania, ti volevo dire, poi ci sentiamo con Boris da Firenze, Italo da Genova, abbiate ancora, vi prego, un po' di pazienza, sulla questione delle centrali nucleari. Allora, il governo sta facendo ricorso contro Basilicata, Sardegna e Puglia, che hanno detto noi non le centrali vogliamo. Non le vogliamo, e quindi loro sta facendo ricorso alla Corte Costituzionale, il governo. Poi viene fuori la Polverini, che è candidata come governatore della regione Lazio, del PDL, che dice qui nel Lazio non si apriranno centrali nucleari perché non le vogliamo, quindi è piuttosto bipartisan questo rifiuto. Non faranno prima il governo a chiedere scusate, alzi la mano alla regione chi vuole, non sarà nessuno. Ma la cosa secondo me più divertente è che tutto questo è stato reso possibile dal fatto che si è dato potere alle regioni, regioni e che è diventato un boomerang, il federalismo. In qualche maniera, il federalismo può diventare anche un boomerang, per cui in questo caso lo diventa, perché se tutte le regioni dicono no, non so bene dove, in una piattaforma a largo delle acque territoriali, non lo so, però è certamente una cosa curiosa che si sia così rivoltata contro, diciamo. Sì, sarà interessante vedere un po' come si sblocca, se si sblocca questa situazione, però è anche abbastanza sintomatico del fatto che forse tutto questo consenso, torno alla questione nucleare, ma si vedrà. Non c'è, insomma, ma non c'è mai stato in Italia, io sono certa che nessuna regione dirà sì, lo voglio io. Sentiamo per esempio Italo da Genova, se lui è favorevole al nucleare. Italo. Oddio, io volevo parlare di Bertolaso, ma... No, ma ne parli, dimmi solo un sì o no, se ti va, o se la questione... Sì, sei favorevole. Mezzo mondo del mondo civilizzato vive col nucleare, l'Iran che è pieno di petrolio dice abbiamo bisogno del nucleare... Vabbè, loro più per questioni belliche, credo. Comunque, Italo, allora, ma lì... La scusa ufficiale è quella che loro hanno bisogno del nucleare, certo, come energia. Ma lì, Italo, in Liguria... Noi il petrolio non l'abbiamo. Ma lì in Liguria la vorresti, una centrale nucleare, a Genova? Bambina, è il famoso discorso not in my backyard. Allora, se non la mettiamo nel mio giardino, la spazzatura, nel giardino di chi la mettiamo? Qualcuno deve prendersi la responsabilità. Qualcuno. Sì che la vorrei, certo. Va bene. Facciamo troppo presto a dire niente nucleare. Ragazza, il discorso a suo tempo, il referendum, è stato questo. Volete voi che vi tagliamo una gamba? È certo che la gente ha risposto no. La domanda doveva essere: era proprio sulla volete gamba. Tenervi la cancrena e morire o vi tagliamo una gamba? E allora avrei voluto vedere. Va bene, Italo, almeno abbiamo posizioni differenti. Senti, invece sul caso Bertolaso, che tu hai chiamato per questo. Caso Bertolaso, molto semplice. Ha sbagliato quando ad Haiti, ha detto non dovevano fare eccetera eccetera, ma è un tecnico, non è un diplomatico. Quando ha criticato gli Stati Uniti, di Bertolaso, io sono uscito con un grande no. Di dolore. era una delle persone o delle immagini che funzionavano di questo paese. È vivo, ancora, diciamo. Dice Stefania Berzini. Ricordo soltanto due cose all'ascoltatore che prima ha detto noi crediamo che la magistratura. Uno, Fidia è stato accusato di avere trafficato con i fondi del Partenone. Due, Tortora è stato infamato, non dico che gli abbiano fatto venire il cancro, ma quasi, per delle accuse totalmente infondate. Se Bertolaso ha avuto una qualche avventura, sono suoi fatti privati. Se qualcuno dei suoi collaboratori ha intascato qualche mazzetta, sono fatti dei suoi collaboratori. Ma per favore, lasciateci credere in qualcosa. Ho finito. È sempre così, non ci sono, lo ribadiamo ogni sabato, io con voi Roberta Giordano e opinionista estemporanea di oggi, con me è Stefania Barzini, giornalista, scrittrice, si occupa di cucina e enogastronomia, ma ha un punto di vista, come sentite, suo naturalmente, su anche tutte le altre cose della vita dell'attualità. Ha pubblicato da poco con Sonzogno L'ingrediente perduto e adesso ci stiamo esprimendo un po' tutti insieme, dialogando come al solito, su, facciamo un bilancio dei fatti della settimana e delle vostre opinioni. Si è parlato molto di Bertolaso e ci ritorniamo adesso perché ci sono anche altri ascoltatori, però abbiamo parlato anche di nucleare, visto che le varie regioni si stanno man mano sfilando, diciamo, dalla possibilità che siano costruite centrali. Ma io poi, se posso dire una cosa, il problema è anche, non è che uno è proprio costituzionalmente contrario, ma siamo pur sempre in Italia e a me chi mi garantisce la manutenzione? Cioè, purtroppo di storia ne reggi tante, a me è quello che mi preoccupa francamente, la sicurezza. Sì. Ora proviamo, per esempio, un'altra cosa di cui volevo parlare, tanto per staccarci un attimo dall'argomento che evidentemente oggi domina, è, io ho visto sul Corriere della Sera di questa settimana, pagina 22, martedì di questa settimana, una foto straordinaria, devo dire, se contiamo che soltanto la scorsa settimana il Monsignor Scatizzi, ex responsabile della diocesi di Pistoia, aveva invitato evangelicamente i preti a rifiutare la comunione ai gay, no? Questa cosa qui. E poi vedo invece che veramente è bella, sorprendente, una bella foto del Cardinal Bagnasco, il presidente della CEI, della Conferenza Episcopale dei Vescovi, che è qui in una bella foto sul Corriere a colori con delle suore dei trans a Genova, in un luogo gestito dalle suore dove spesso si ritrovano anche i transessuali, e lui in mezzo come in una foto quasi di una gita scolastica. È bella, io l'ho trovata tenera, l'ho trovata rivoluzionaria, sinceramente non so quanti hanno fatto caso a questa foto, a me è piaciuta, così in contrasto con quello che succede negli ultimi tempi, l'omofobia in realtà negli ultimi tempi da lungo tempo, ma con, diciamo, dei momenti così di particolare acume, cioè di diciamo un po' più violenti, ecco, questi momenti di altri periodi storici più recenti. Quindi a me ha sorpreso, non so. Sì, ma penso che sia anche testimone di quello che sta accadendo anche nella Chiesa, oltre che nella società nostra, poi in tutto, cioè c'è tutto e l'opposto di tutto, per cui varie anime, dire, quindi, varie anime, sì, sì, anche nella Chiesa. Mi ha sorpreso piacevolmente. E poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, dopo ci sarà Emanuele, ci sarà Davide, ci sarà Boris, leggevo invece sempre su questioni milanesi, mi sembra, che ci sono sempre meno insegnanti delle scuole superiori che si rendono disponibili per le gite, perché dicono i ragazzi sempre più si drogano, bevono, qualche ragazza rimane incinta, insomma un disastro. Ma intanto mi sembra che ci sia sempre un pochino di esagerazione, forse, no? Ma soprattutto non so se esagerazione da parte dei professori o da parte dei giornalisti, perché sono quelle tipiche cose che poi comunque creano notizie e non si sa. Io faccio, e a proposito dell'esagerazione dei giornalisti, faccio un esempio stupido. Ieri ho acceso la mattina un sito di informazione di cui non dirò il nome, diciamo, e che titolava con delle fotografie: Milano sotto la neve, contre di neve a Milano. Ieri. Io non mi sono affacciata alla finestra e ho detto: ma forse ma sei sicura? C'è qualcosa che non mi torna. Per cui voglio dire, facciamo attenzione. Anche. È il pregiudizio. È nevicato a Roma, ma siccome, esatto, a Roma sembrava strano che fosse nevicato, Milano, che è un classico. Esatto. No. Per cui non lo so se questa storia dei ragazzi, ma poi comunque voglio dire, il discorso non è evitando le gite che poi non accadono queste cose, accadranno da un'altra parte, insomma, non mettere dei tappi non serve a niente. Boris da Firenze. Buonasera signora. Mi puoi chiamare Roberta, Boris? Che a me è proprio signora. Pronto? Pronto? Pronto, mi sente? Sì, sì, Boris, sono Roberta. Buonasera signora. Senta, le dovrei dire due cose, sì. Cercherò di essere brevissima. La prima, sì. governatore della Banca d'Italia. Draghi. A me piacerebbe sapere tanto quanto guadagna alla fine dell'anno. Però quando parla di economia, di crisi, che il PIL non va bene, ma non gliene domanderà mai ai dirigenti della Fiat perché fanno fare l'automobili all'estero dove la manodopera la costa la metà che da noi, perché ci si impoverisce anche a non pagare la manodopera in Italia. Il governatore queste cose le dovrebbe dire qualche volta. La seconda, e poi termino. Sì. Io sono vecchio, ho 78 anni, signora. Ah, insomma, è tutto giovane, relativo. Giovane. No, non sono giovane. Ti ha sentito, tanti anni fa, io andavo a un ristorante a Firenze, bellissimo. Bellissimo. Di fronte al Palazzo di Ferragamo, sull'angolo di via Tornabuoni. E a tavola vicino a noi c'era tre coppie, tre uomini e tre signore, marito e moglie. Ci si accorse, mentre si era lì a tavola, questi signori erano dei magistrati, che non si conoscevano. Forse alla fine di pranzo qualcuno aveva bevuto un bicchiere di vino in più. Uno di questi magistrati disse: guardate, a me voi portate l'elenco e il telefono, ma serio, lo aprite alla pagina vi pare voi altri, mettete un dito su un nome e io lo tengo un mese in galera, lo ridesse chi vuole. Ecco, se la magistratura non è cambiata da allora, l'è sempre detta. Io sono per Bertolaso, perché anche se gli è andato con qualche donna, beato lui. A me le donne mi piacciono tanto, ma non mi ricordo perché. Lui invece del giovane se lo ricorda, beato lui, che non la faccia intanto lunga. Perché mescolano tutto la politica, signora, è uno scandalo. Anche allora, quello di Partito Comunista, che non comunista, operaista, cooperativista, che va ai festival di Sanremo, ma vada a lavorare in un'officina un pochino a vedere come si dura la fatica. Senti Boris, senti, a parte che la questione appunto di accertamenti, indagini che ci sono non sono solo relative a donne di scambio ma a eventuali appalti, corruzione eccetera, ma sono tutte cose che appunto saranno verificate. Dimmi una cosa, te la ricorderai, per cui ti piacciono le donne, non è soltanto una questione fisica, ci sarà qualcosa che stimi nelle donne? No, Boris. Ora mi piace la voce. Ah, la voce, beh, meno male. È bella la voce. È bella, ma la perché voce. Perché mi piace le donne, che le belle non me lo ricordo più. Ma poi nel caso ti ritornassi in mente me lo dici e mi richiami. Grazie, va bene Boris? Signora, grazie. Auguri. Ciao Boris a te. Emanuele da Verona. Sì, ciao Roberta. Ciao Emanuele. Ciao, io volevo intervenire sul nucleare, però prima volevo intanto fare i complimenti all'ascoltatore di prima, al pensionato di Avellino, perché sì, veramente concordo in tutto e per tutto. E poi volevo anche dirti che io sono uno di quei docenti che non vuole portare i ragazzi in gita, perché sul serio io insegno scienze in un CFP a Verona e veramente è imbarazzante vedere la situazione degli alunni. E ma più cosa altro, succede? Cosa succede? Sì, si ha degli alunni che veramente oramai va di moda ubriacarsi due volte a settimana almeno, molti fumano, cioè non me la sento sinceramente di prendermi la responsabilità di portarli in giro e chissà che cosa può succedere in giro. Beh, un po' però, vero Emanuele, quello era il caso soprattutto di Milano, ma credo che sia un po' generalizzato, se lo dici anche tu a Verona. Cioè è l'età difficile, forse gli insegnanti perdono sempre, almeno nel nostro clima culturale, un po' di autorità, autorevolezza, e quindi finisce che poi è così. Emanuele, magari sono già difficili da gestire in classe una volta fuori. È una situazione comunque che tutti noi docenti abbiamo, non è che solamente in questa scuola, io mi confronto anche con delle altre persone e un po' tutti i docenti sono nella stessa situazione. Per carità, dopo c'è sempre magari il liceo che ha la classe particolarmente brava, buona, che allora fanno la gita tutti gli anni. Però da quando andavo a scuola io, che comunque non è passato molto tempo, perché infatti ho 27 anni. Ecco, una voce giovanissima. Sì. Ma sei supplente o già insegnante di ruolo tu? No, è un CFP, è il primo anno che insegno. Infatti sentivo una voce molto giovane. Non è neanche il mio reale lavoro, io mi occupo di fotovoltaico. Niente, comunque mi confronto con altri docenti e vedo che la situazione è un po' la stessa, e io mi rendo conto anche da quando andavo a scuola io, quindi ho fatto l'università fino a 3-4 anni fa e le superiori fino all'anno 2000, quindi non è tantissimo tempo fa, però le sono cose cambiate, sono degenerate. Le cose secondo me sono un po' degenerate, sì, come il livello medio osservare della cultura. Comunque questa è una piccola parentesi, io volevo solamente intervenire sul nucleare. Sì, visto che ti occupi di fotovoltaico. Sì, il nucleare secondo me è assolutamente un investimento che antieconomico. L'unica cosa vera che si può dire sul nucleare, l'unico vantaggio è che effettivamente non provoca gas serra, non provoca le famose emissioni di CO2. Mm-hmm. Però abbiamo delle scorie radioattive che non sappiamo cosa fare. Siamo in Italia, quindi con le scorie radioattive è facile che vadano a finire in una nave dei veleni. Dopodiché ci vuole 10 anni per costruire una centrale e altri 10 anni perché inizi a produrre energia in modo attivo, perché in questi 10 anni di costruzione della centrale noi sappiamo che si consuma molta energia per tirare sulla centrale, quindi l'energia di altri 10 anni di centrale che sta andando effettivamente andranno solamente a pagare l'energia consumata per la costruzione. Quindi questa centrale avrà un attivo fra 20 anni se tutto va bene. E noi siamo in Italia, purtroppo in Italia abbiamo delle centrali a turbogas che producono, hanno delle rese del 30-35%, che sono comunque basse, perché in Svezia fanno delle centrali a turbogas a ciclo combinato con delle turbine a gas e delle turbine a vapore, dove arrivano a rese in cogenerazione fino al 90%. Producono energia elettrica per il 55-60% e dopo energia termica, e noi invece produciamo il 30% di energia elettrica e il resto lo buttiamo via, per non essere volgari. Però posso chiedere una cosa, una curiosità che ho io: perché secondo te, diamocene tu, c'è questa resistenza nel nostro paese, ma anche in genere, ma nel nostro paese in particolare, invece a investire, diciamo, su nuove tecnologie, nuove energie? Perché si torna sempre agli stessi schemi senza veramente lavorare in un'altra direzione? Beh, adesso non vorrei entrare in merito, ma secondo me i discorsi sono quasi più politici, sono dei discorsi che veramente vanno sempre a finire, i soldi di questi incentivi, di questo ritorno al nucleare, andranno sempre a finire ai soliti quattro noti, non mi faccia fare nomi, che non comunque i nomi sono sempre gli stessi, e comunque non posso portare, sono solo ipotesi queste, certo. Però saranno investimenti a perdere. Se una centrale nucleare può costare 10 miliardi di euro, naturalmente in Italia si farà in modo di mangiarne almeno 30. È solo un modo per mangiare soldi statali, secondo me. Emanuele, ti ringrazio. Eccoci qua a riflettere come sempre sulle notizie della settimana. Ci mancano ancora quei 11 minuti neanche, quindi adesso mi toccherà, come diceva l'ascoltatore, accelerare man mano, adesso anche con i prossimi ospiti e con gli ascoltatori. Sempre Stefania Barzini con me, ha pubblicato L'ingrediente perduto, giornalista, scrittrice ed esperta di cucina. Un'altra volta magari ti chiedo qualcosa di una ricetta, che cosa mangiamo domani, porto da mangiare, ecco, questo mi sembra un'ottima idea, effettivamente che a quest'ora si può ancora, cioè, il sabato ci si può dilungare nel pranzo. E c'è Davide da Ferrara. Oh, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno. Davide, grazie della pazienza. Telefono da una soleggiata Ferrara. Oh, bene, bene, un po' di sole. Poi ci dirà Giuliaci se la prossima settimana ancora questa Siberia che impera da noi oppure no. C'è il sole a Ferrara. Che fai, sì, Davide? Stai girando per la città in macchina? No, sono appena tornato dal lavoro. Ah, che poi si gira in bicicletta per lo più a Ferrara, no? Sì, beh, è ancora un po' freddo per la bicicletta, però in realtà è una delle città più vivibili e più... È vero. Vero, più sfruttabile dal punto di vista ciclistico. Quindi sei entrato in casa e acceso subito la radio per sentire Non ci sono più le mezze stagioni su Radio 24. No, a dire vero ero in automobile nel ritorno, ho preso il telefono e ho voluto intervenire. Bravo, dici tutto, Davide. Ma sostanzialmente sul caso Bertolaso. Sì. In quanto io ho un'ammirazione sfegatata, a dir poco, per il dottor Bertolaso. E l'ho seguito nelle vicende che l'hanno portato a capo della Protezione Civile, e comunque mi ha appassionato l'idea che francamente in Italia qualcosa finalmente potesse dare l'idea di funzionare con una certa efficienza, e sono rimasto quindi un attimo allibito a fronte di queste notizie che sono venute fuori in particolare questa settimana. Io nutro di fatto qualche dubbio sull'operato della magistratura, ma è un'opinione assolutamente personale che non ha nessun valore. Certo. E quantomeno quello che mi fa pensare è che in genere, almeno dovrebbe essere così, gli avvisi di garanzia dovrebbero essere una garanzia, appunto, come dice la parola, di sicurezza a fronte dell'indagato. E in questo caso, voglio dire, il venire in mano come notizie di questo tipo di materiale sensibile a fronte di un'indagine da parte dei più, francamente, lascia un attimo perplesso. Voglio dire, gli strumenti poi per valutare questo genere di notizie sono piuttosto difficoltose, mi riferisco alle persone comuni. Quindi, in sostanza, quello che volevo dire è lo trovo francamente strano che sistematicamente in Italia, prima ancora che si accertino i fatti, ci siano già nelle mani delle persone, probabilmente tramite un mezzo stampa, notizie che siano sensibili durante una fase di indagine. Addirittura parla delle intercettazioni? In particolare sulle intercettazioni telefoniche, che francamente addirittura mi sembravano, a leggere poi quello che veniva passato ieri sera per telegiornale, non mi ricordo quale, ma è il telegiornale della RAI, che fosse addirittura un intervento telefonico di quello di Bertolaso, decisamente, come dire, in molto silenzioso, molto tranquillo, molto quasi, scusate se chiedo, mi sembrava talmente, come dire, a modo e talmente entro le righe quello che riferiva nella telefonata, che dava quasi poco da pensare che si Ma Davide, il discorso però non è tanto Bertolaso da solo, il discorso è quello di un gruppo di persone che lavorano, non si può dire la responsabilità è solo degli altri, cioè adesso tutto questo verrà, come dire, bisogna vedere se è vero, però se lei legge, oggi ci sono sul giornale le intercettazioni agli altri che lavoravano con Bertolaso, sono abbastanza impressionanti, ecco. Sì. Beh, bisogna anche tener conto che però a fronte di interventi in fatti di emergenza, come ad esempio una ricostruzione o come un intervento alla Maddalena, che poi alla fine non ha fatto altro che portare di fatto qualcosa di nuovo e di positivo. Anche se per ora, Davide, è tutto un po' fermo lì, e si parlava di questi 300 milioni investiti che per il momento, insomma, non hanno portato dei grossi frutti, se non delle cose che sono lì un po' ferme, un po' abbandonate. Comunque, Davide, perdonami, devo proprio adesso chiudere con la tua telefonata, perché tu ci parlavi di una Ferrara assolata, ma dobbiamo sapere anche per il resto d'Italia che succede. Lo sentite dalla serietà di questo ritmo, che immediatamente ci dobbiamo collegare col colonnello Giuliacci. Caro colonnello, in due righe. Ciao Roberta. Ciao, caro colonnello. Secondi, dai, abbiamo dunque 24 secondi, mi dicono. Vabbè, facciamo 25. Sì, 25, dai. Perché sei tu. Allora, diciamo, oggi è una giornata su tutta l'Italia, eccetto nuvole direi dal sud e qualche pioggia che arriverà sulla Sardegna e Sicilia. Ma domani già peggiora, direi, una giornata con nuvole su tutta l'Italia, eccetto le regioni di nord-est, ci saranno piogge su Marche, Abruzzo, Molise al sud, e delle nevicate oltre 700-900 metri, appenniniche, sì, e guarda, attenzione però, domattina potrebbe comparire qualche debole nevicata anche sul Piemonte, sull'Alto Piemonte. Non si scontenta nessuno, insomma. Sì, Novarese, anche forse qualche fiocco nel Milanese, ecco voglio dire, sì. Non grande nevicata, ma voglio dire una coreografica, diciamo, nevicata debole nella mattinata in queste aree. Poi restano queste piogge soprattutto sul medio Adriatico al sud, e lunedì migliora quasi ovunque, ma tra martedì e giovedì di nuovo nuvole su gran parte d'Italia, con piogge soprattutto al centro-sud, ma ancora nella giornata di martedì il rischio che i fiocchi di neve possano ricomparire, diciamo sul basso Piemonte, questa volta sull'ovest della Lombardia. Una possibilità, insomma, ancora questa neve che questo inverno fa da, diciamo, da protagonista. Diciamo, colonnello Giuliacci, che quando finirà questo inverno non ne sentiremo una particolare mancanza. Ciao Roberto, se un salutone a tutti. Ciao colonnello. Ha imparato che ho una certa fretta, povero colonnello. Ma adesso invece ci avviciniamo a un altro appuntamento, è vero? Lei invece a Roma, Valeria Della Valle, linguista della Sapienza, proprio della capitale, quindi ti ho voluto dedicare, visto che stiamo regalando dialetti d'Italia, due di questa puntata e due la prossima, molto carino, eh? Ecco, ti va bene, tanto per cantare, Valeria? Sì, canto per cantare. Allora, anche perché ti volevo far entrare in questo argomento. Sai, ti dicevo che a Sanremo c'era stato tutto il dibattito, apriremo, cambieremo il regolamento, quest'anno ci saranno le canzoni di Eletto, poi alla fine tutte le canzoni soltanto Nino D'Angelo, però è servito a riaprire un po' questo dibattito, a qualcuno è piaciuto, a qualcuno no, è uscita questa compilation di Eletti d'Italia, comunque simpatica. Ma certo, ecco, che ne pensi? Io naturalmente non dico compilation, magari dico compilazione. Hai ragione. sì. Insomma, in ogni modo. Scusa, mi sono lasciata un po' andare io proprio. Perché i dialetti sono una ricchezza, sono un patrimonio legato alla memoria, alle nostre origini familiari. Ma a parte questo aspetto sentimentale e affettivo, vorrei solo molto velocemente dire che dobbiamo puntare non tanto e non solo alla rivalutazione nostalgica di qualcosa che storicamente è oggi in regresso, lo parlano il dialetto, lo parla il 16% degli italiani, ma dobbiamo puntare invece alla condivisione e al buon uso della lingua nazionale, e non mi stancherò mai di ripetere che la lingua nazionale è l'italiano. E allora approfitto velocemente per fare proprio un fervorino, sottolinea il velocemente da, Valeria, perché sa che solo per ricordare che nella nostra nazione il vincolo più forte che oggi ci tiene stretti come italiani forse è, anzi se togliamo il forse, è l'italiano. Quale la dimostrazione? Ma quando abbiamo sentito parlare oggi Ferdinando, Italo, Boris, Emanuele, ognuno proveniva da una regione diversa, abbiamo riconosciuto in ognuno di loro una simpatica sfumatura di pronuncia, ma tutti si esprimevano nella lingua nazionale, quindi noi ci capiamo, stiamo uniti, dialoghiamo insieme in quanto italiani, perché usiamo quella che è la lingua che è stata faticosamente conquistata attraverso secoli di storia, punto. Visto che ci avviciniamo all'Unità d'Italia, no? Il 150esimo anniversario. Grazie Valeria. A te, ciao. Bello stornello romano ci stava ancora, ma poi insomma ce ne sono tante altre. E adesso in questi pochi secondi che ci mancano, forse riesco a dare spazio prima di chiedere una chiusura a Stefania Barzini. Ancora Andrea da Frosinone. Sì, Andrea, sei proprio, come si può dire, telegrafico. Ratto come la folgore, telegrafico. Sì, buongiorno. Buongiorno Andrea. Sì, ecco, volevo dire il mio disappunto sul radioascoltatore di prima. Sì, in 24 dice che secondi. Lui... Sì, scusami. Sì, ha bisogno della fede, sì. in qualcosa in cui credere. Ah, lasciatemi credere in qualcosa, sì. Sì, e vada in chiesa a questo punto. Cioè, qui stiamo parlando di Italia, di delle cose che funzionano e che non funzionano, soprattutto. Io rimango veramente sconvolto, cioè, perché poi questo è il pensiero comune, cioè, si pensa a Bertolaso come se fosse un eroe, ma alla fine solo i media l'hanno... fatto vedere così, alla fine sta solo facendo cose, per carità, ha fatto delle cose sì ben fatte, poi vedremo se ci sono anche delle cose mal fatte. Andrea, comunque sei stato un uomo di parola che io apprezzo. Sei stato breve, hai detto breve e sei stato breve. Grazie Andrea, grazie, ci sentiamo, arrivederci. Allora, che dice Stefania Barzini, una chiusura, chiedo al mio opinionista estemporaneo ogni volta, che ti viene da pensare? Ma che mi viene da pensare? Che siamo confusi nel senso che appunto siamo un popolo confuso. Anche questa puntata in qualche maniera non si capisce chi sì, chi no, e sicuramente opinioni però... diverse e tanto desiderio, però questo sì che lo sento comune a tutti, di sapere la verità e di avere qualcosa comunque di cui ci si possa fidare, dei punti di riferimento. Sì, mi sembra che sia un po' questo. E poi poche donne ci sono, ma spesso preferiscono ascoltare, a volte dipende. Comunque l'invito è sempre a intervenire, poi anche sabato prossimo, ve lo ricordo, ci saranno altre due copie del CD di Eletti d'Italia. Grazie a Stefania, grazie Barzini, a due donne che erano qui con voi col suo ingrediente perduto. Roberta Giordano vi augura sereni orizzonti a tutti.